Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Simone Spoladori. Torino, Stadio delle Alpi, 4 luglio 1990. Per la semifinale del campionato del mondo di calcio si affrontano la Germania e l'Inghilterra. 34 anni dopo la finale del Mondiale 1966, quello giocato in Inghilterra, quello vinto dagli inglesi proprio contro i tedeschi grazie a un clamoroso gol inesistente, va in scena la più attesa delle rivincite. Fino a quel match, gli inglesi e i tedeschi, insieme agli azzurri padroni di casa, hanno espresso il calcio migliore. La squadra britannica può schierare campioni come Gary Lineker, Chris Waddle, ma soprattutto il bizzoso e geniale Paul Gascoigne. Proprio grazie all'estero di quest'ultimo, gli inglesi riescono a contenere l'irruenza della Germania di Matthaus e Bremer. Now Bremer is standing at the back of the three. It's direct. It's been deflected and it's in the net. Al 60° minuto, il laterale sinistro della Germania e dell'Inter, Andreas Brehme, calcia una punizione da fuori area. Il tiro impatta sulla barriera e si insacca alle spalle di Peter Shilton, portiere della nazionale inglese. È 1-0. Gli inglesi non si arrendono e giocano meglio. 20 minuti dopo, il bomber Gary Lineker, capocannoniere dei mondiali messicani di 4 anni prima, sigla il pareggio. Si va ai supplementari. L'Inghilterra domina per larghi tratti, ma non segna. È necessaria la lotteria dei calci di rigore. Dopo l'errore di Stuart Pearce, l'Inghilterra deve sperare che il tiro dagli 11 metri di Chris Waddle si insacchi, altrimenti in finale andranno i tedeschi. Ilgner, portiere tedesco, si butta dalla parte sbagliata, ma il tiro sorvola la traversa e fuori. Germania in finale. Noi italiani ci ricordiamo bene come poi finito quel mondiale. Nell'altra semifinale l'Argentina fa fuori gli azzurri e poi in finale soccombe ai tedeschi, che si laureano campioni del mondo. Questa è un'altra storia. Quella che vi raccontiamo noi, invece, parte da quel rigore sbagliato da Waddle nella semifinale di Torino. L'Inghilterra ha sfiorato il titolo e ha giocato un calcio fresco e divertente. Non è bastato. La sconfitta ai rigori è amara da digerire. Al centro del campo i giocatori sono in lacrime. Li consola il loro allenatore, uno dei più grandi coach del calcio inglese, il loro condottiero gentile, Sir Bobby Robson. Bobby Robson. Bobby Robson è una leggenda del calcio, un monumento. Dopo una lunga carriera da calciatore che lo porta anche a vestire per 20 volte la maglia della sua nazionale, Robson inizia una strepitosa carriera da manager. Il primo club che allena è il piccolo Ipswich Town. Ipswich è una cittadina di 120.000 abitanti sulla costa est dell'isola britannica. Robson rimane lì per 13 anni e trasforma il piccolo club in una delle squadre più importanti d'Inghilterra, nota e temuta in tutta Europa. Quella di Ipswich è stata l'esperienza più bella e più importante della mia carriera. Gran parte del merito è di John Cobbold, il presidente, un uomo di calcio d'altri tempi. Non sapeva nulla di calcio e mi dava sempre grande supporto, senza interferire mai. Quando perdevamo una partita, il giorno dopo mi chiamava e mi diceva: «Bobby, tutto bene? Tu e tua moglie venite a pranzo da me». Beh, andavamo e non era mai critico. Mi incitava e diceva: «Guardiamola così. Questa volta abbiamo dato ad un'altra squadra l'opportunità di festeggiare». Nei 13 anni a Ipswich, Bobby arriva per 2 volte al secondo posto del campionato, vince una FA Cup e si aggiudica una storica Coppa UEFA. In 13 anni compra solo 14 giocatori, valorizzando tutti quelli provenienti dal vivaio, diventando uno degli allenatori più quotati del calcio europeo. Uomo onesto e leale, di sani principi, figlio di un minatore di Durham, Robson cattura l'opinione pubblica anche grazie ai suoi modi gentili e composti, a una cultura non solo sportiva, insolita per un uomo di calcio, e a un carisma innato. con i giocatori è fermo e inflessibile, ma anche paterno e comprensivo. Nel 1982 il calcio inglese vive l'ennesimo mondiale deludente. In Spagna la nazionale britannica viene eliminata nel secondo girone dopo due pareggi per 0-0 con Germania e Spagna. Il commissario tecnico Ron Greenwood viene sollevato dall'incarico. L'opinione pubblica invoca a gran voce Bobby Robson. Il presidente dell'Ipswich, John Cobbold, mi aveva offerto un contratto di 10 anni, ma non potevo certo rifiutare la nazionale e lui lo sapeva, quindi mi ha lasciato andare verso il mio destino. È così che inizio l'avventura di Bobby Robson sulla scomoda panchina della nazionale inglese, una panchina rovente. Allenatori come Terry Venables, Kevin Keegan e in tempi più recenti Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello l'hanno sperimentato sulla propria pelle. L'Inghilterra a livello di nazionali non vince nulla dal 1966, quando il gol fantasma di Hurst aveva consegnato la Coppa del Mondo agli inglesi in casa propria sotto gli occhi di Sua Maestà. Styles with a long ball through to Ball, and Ball will run for all he's worth after this one. He turns it in. Can Hurst get a shot in? There's a chance for Jeff Hurst, and he's hit the bar. It must be a goal. I would have thought that went in. Da allora è come se gli inglesi dovessero espiare quella clamorosa ingiustizia sportiva, come se dovessero fare i conti con una sorta di maledizione. Forse quella maledizione che spinge nel 1990 il rigore di Chris Waddle sopra la traversa e l'Inghilterra fuori dal mondiale. Dopo 8 anni, Bobby Robson si dimette da CT della nazionale. Non c'è giorno della mia vita nel quale io non ripensi a quella semifinale e a quel rigore. Robson, peraltro, aveva rimediato una delusione enorme nel suo primo mondiale alla guida della nazionale inglese, quello del 1986. In quel frangente, la sua nazionale era stata eliminata nei quarti di finale dall'Argentina, o meglio, da Maradona, e dal suo clamoroso gol di mano. Here's Maradona, and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball that. Maradona celebrating, and the goal's going to be given. Shilton furious, and so is Peter Reid, and the England manager Bobby Robson can't believe it. Quella non era la mano di Dio. Quella era la mano di un mascalzone. Dio non c'entra proprio nulla. In ogni caso, la storia di Robson CT dei Leoni d'Albione termina nel 1990. In quell'anno Robson firma per il PSV Eindhoven e inizia a girare l'Europa seminando vittorie. Bobby Robson firma per il PSV Eindhoven, subito dopo il Mondiale italiano del 1990. Quella olandese è la prima tappa di uno straordinario giro d'Europa durante il quale otterrà grandissimi successi e lancerà innumerevoli giovani campioni. Al PSV Eindhoven, Robson rimane 2 stagioni e vince 2 campionati. Tuttavia i contrasti con la stella del club, Romario, e i risultati deludenti in Europa lo portano a non rinnovare il contratto. Robson ha 59 anni, ma non gli manca la voglia di mettersi in discussione, così tra le varie offerte sceglie quella che lo affascina di più. Rilanciare il club portoghese dello Sporting Lisbona, il secondo club della capitale lusitana. Per me Lisbona era una sfida non solo calcistica. Il Portogallo è una nazione mediterranea con una cultura lontanissima dall'Inghilterra e anche dall'Olanda. E poi avevo il grande problema della lingua. C'erano giocatori portoghesi e tanti brasiliani e praticamente nessuno parlava inglese. Il club decide di fornire a Robson un interprete che lo possa affiancare nella stagione, almeno nei primi tempi. I dirigenti non vogliono però un semplice traduttore. È necessaria una persona che capisca di calcio per rendere più fluida la comunicazione tra Robson e i giocatori. La scelta ricade sull'assistente allenatore di una squadra di scarso livello della massima divisione portoghese, l'Estrela de Amadora. Si tratta di un giovane uomo colto e istruito, ex insegnante di educazione fisica, che parla benissimo l'inglese. Era davvero un ragazzo intelligente. Capii subito che si trattava di una persona speciale. Era attento, sveglio, parlava un ottimo inglese. E poi era uno che studiava calcio continuamente. Si crea subito un ottimo rapporto tra noi, ma intuivo, già dai primissimi giorni, che come semplice traduttore sarebbe stato sprecato. Bobby Robson comprende immediatamente le qualità della persona che il destino gli ha fatto incontrare. Un uomo destinato a entrare nella storia del calcio. Il suo nome è José Mourinho. José Mourinho. José Mourinho è nato a Setúbal il 26 gennaio 1963. La passione per il calcio è ereditaria. Suo padre, infatti, Félix Mourinho, era un calciatore professionista, un portiere. Lo zio paterno, un architetto che aveva progettato l'impianto del Vitória Setúbal, uno degli stadi più belli del Portogallo. Sua madre, invece, un'insegnante di liceo. Sin da piccolo, José è affascinato dal mondo del calcio. Studia quasi ossessivamente risultati e statistiche, le formazioni e i nomi dei giocatori. Spesso segue anche il padre nelle trasferte per respirare l'aria del campo. Naturalmente José gioca a calcio e tenta di seguire le orme del padre, che quando José ha circa 12 anni diventa allenatore. Il giovane Mourinho riesce a farsi strada come calciatore, arrivando fino alla Serie A portoghese, ma il talento non è di quelli destinati a lasciare il segno. La madre gli ha sempre ripetuto: José, devi sempre pretendere il massimo da ogni situazione. La sua carriera da calciatore sarebbe destinata alla mediocrità e all'anonimato. Così Mu abbandona il calcio giocato a soli 24 anni, con un sogno ben chiaro in testa: la carriera di allenatore. Sì, come calciatore non era sicuramente un fenomeno. E fortunatamente non ho fatto male come allenatore. Nel 1985, José si laurea con risultati eccellenti all'equivalente portoghese dell'ISEF. Mentre lavora come insegnante di educazione fisica in alcune scuole superiori di Setúbal, riprende quindi in maniera sistematica lo studio teorico del calcio, frequentando in Scozia un master tenuto da alcuni allenatori del campionato inglese e iniziando a elaborare una sua personale idea del ruolo dell'allenatore, forgiata attraverso approfonditi studi di psicologia dello sport, meno tattica, più lavoro sulle motivazioni e sulle certezze psicologiche dei giocatori. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo raccontando la storia di Bobby Robson, storico allenatore inglese, e José Mourinho, che nel 1992 è semplicemente un aspirante coach ingaggiato dallo Sporting Lisbona proprio come interprete di Robson. Quest'ultimo capisce che Mu ha la stoffa per essere un grande uomo di calcio e lo porta con sé a Barcellona, 4 anni dopo, come assistente. Gusto molto, algo. What is the word that tell us? Maybe we have to change some. Probabilmente tenemos que cambiar. In Catalogna la sinergia tra i due si rafforza ulteriormente. Robson è fautore di un calcio offensivo e spettacolare. Mourinho ama soprattutto la fase difensiva. Robson ama improvvisare e costruire la squadra sui rapporti umani con i singoli. Mu è invece un alfiere della pianificazione. Ricordo che era scrupolosissimo. Se gli affidavo un compito come osservatore, tornava con un report perfetto, dettagliato e di una precisione assoluta. Del resto era un insegnante di scuola e si vedeva. In uno di questi report, Mourinho esprime parere favorevole all'acquisto di un giovane giocatore brasiliano che milita in una squadra olandese, il PSV Eindhoven. Il suo nome è Ronaldo. Adelanta para Ronaldo. Pelean esa pelota Popescu y Chiva. Ronaldo. Perseguido, agarrado por Chiva. Se va Ronaldo. Atención que ahí sí que es peligroso el brasileño. Ronaldo. Ronaldo, gol, che golazo acaba di fare Ronaldo. Nella stagione 1996-97, il Barcellona di Robson e Mourinho è una squadra fortissima. Oltre a Ronaldo, ci sono campioni del calibro di Stoichkov, Figo, Guardiola. La squadra vince la Coppa delle Coppe e la Coppa del Re. Arriva però seconda in campionato a soli 2 punti dal Real Madrid. L'apporto di Mourinho alla gestione tecnica della squadra è determinante. Aveva una personalità incredibile. Era in grado di andare da giocatori come Figo e Stoichkov e dire loro in faccia quello che non andava bene senza remore. Era incredibile, perché lui non aveva avuto una carriera calcistica di livello. È un po' come andare da Roger Federer e dirgli come si gioca a tennis. Beh, lui lo faceva e i giocatori lo rispettavano. Anche i giocatori di quel Barcellona ricordano l'esperienza di quella stagione sotto la guida di Sir Bobby Robson e del giovane José Mourinho, come una delle bandiere della squadra, Luis Enrique. Erano una coppia molto affiatata e molto carismatica, diversi tra loro, quasi complementari e molto amici. Robson era molto diretto, molto attento ai rapporti umani, gestiva il gruppo tastandone costantemente il polso. Mourinho era quasi scientifico, prendeva appunti, catalogava tutto, parlava quattro lingue. Era sempre dietro di me mentre dirigevo l'allenamento. Attento, scrupoloso, prendeva nota di tutto. L'aveva fatto sempre per 6 anni, da quando era con me, nello Sporting, nel Porto e nel Barcellona. Io avevo giocato a calcio a livello internazionale, lui no. Ma era colto, era un professore, e questo faceva la differenza. Alla fine della stagione 1996-97, Robson cambia ruolo nel team, diventando direttore generale. Mourinho naturalmente rimane assistente allenatore, affiancando l'olandese Louis van Gaal. Il Barcellona vince la Liga e al nuovo tecnico olandese non sfugge il talento del portoghese. Gli viene così affidato l'incarico di allenare la squadra riserve del Barcellona. Tra Mourinho e il tecnico olandese van Gaal si crea un buon feeling. Il 24 marzo del 1998 van Gaal gli regala una notte da protagonista, consentendogli di guidare la prima squadra in una partita di Coppa di Catalogna, una competizione minore. E l'esordio di Mourinho come allenatore è il debutto in una conferenza stampa. Parece che è stato un partito positivo per tutti, positivo per noi, positivo per i giocatori, positivo per i chicos. Stagione 1998-99. Le strade di Mou e di Bobby Robson si separano. L'inglese torna infatti al PSV Eindhoven. José stavolta non lo segue. Robson sa che ormai il suo pupillo deve andare per la sua strada. Rimane al Barcellona come secondo di van Gaal fino al settembre del 2000, quando arriva una chiamata dal Benfica. L'allenatore del team portoghese è stato esonerato. Su indicazione di Robson, i dirigenti del club lusitano avrebbero pensato a Mourinho. José si consulta con van Gaal. Per correttezza ho parlato a van Gaal della possibilità di tornare in Portogallo. Mi ha detto: se vai per fare ancora il secondo, resta qui con me. Se è per fare l'allenatore, allora non stare a pensarci. Vai. Il Benfica, la squadra più prestigiosa del Portogallo, è quindi la prima squadra che José Mourinho si trova ad allenare. La sua esperienza dura però solo 9 gare. Dopo una vittoria sonora nel derby contro lo Sporting, chiede il rinnovo del contratto. Al rifiuto del presidente, José si dimette. Passa quindi all'Uniao de Leira, squadra di basso livello della Serie A portoghese, che José riesce a portare fino al 5º posto. Quindi, nel gennaio 2002, arriva il trasferimento al Porto. Non si passano. Robson nel frattempo si era trasferito al Newcastle in Inghilterra, la sua squadra del cuore, e mi aveva supplicato di raggiungerlo per fargli da assistente. Mi aveva detto: fammi da assistente per 2 anni e poi ti lascerò la guida del club. Sapevo che non l'avrebbe mai fatto e quindi ho rifiutato. Mourinho al Porto rimane 2 stagioni, 2 annate che lo consacreranno come uno dei migliori allenatori al mondo. Chiede e ottiene acquisti mirati e dettagliati. Costruisce un team forte fisicamente e solido in tutti i reparti. La sua squadra, magari non innovativa sul piano del gioco, è furiosa sul piano agonistico, aggressiva, cattiva, non si arrende mai. Inoltre Mou si dimostra rivoluzionario a livello comunicativo. Le sue conferenze stampa diventano un cult, irresistibili per tutti i tifosi. Sul sito appaiono ogni giorno report degli allenamenti scritti da lui in un linguaggio tecnico e colto. Il Porto, nella prima stagione di Mourinho, vince il campionato portoghese con 11 punti di distacco sul Benfica. Vince la Coppa UEFA, vince la Coppa del Portogallo. La stagione successiva, il capolavoro. Rivince il campionato, rivince la Coppa del Portogallo, ma soprattutto, alla prima partecipazione come allenatore, vince la Champions League. Rete, rete! Alenicev, Champions League al Porto! A Gelsenkirchen, in Germania, il Porto batte il Monaco per 3-0 e si laurea campione d'Europa. Mentre i giocatori del Porto festeggiano al centro del campo, Mourinho, con la faccia triste, abbandona prima di tutti gli altri il terreno di gioco. Pochi giorni dopo si scoprirà il motivo. Mu ha già firmato per il Chelsea di Roman Abramovic per una cifra di 4 milioni di sterline l'anno. Un maniaco tifoso del Porto che aveva scoperto l'accaduto l'aveva minacciato di morte. Mu esce di scena così, con un velo di tristezza, a sporcare il suo primo trionfo. Se avessi voluto un lavoro facile sarei rimasto al Porto, con una bellissima sedia blu, una Champions in bacheca, Dio e dopo Dio il sottoscritto. Ma io amo le sfide. Per questo ho scelto di ricominciare da capo. Nel 2004 Mourinho viene presentato alla stampa come il nuovo allenatore del Chelsea, quello che dovrà riportare i Blues al trionfo dopo oltre 60 anni, l'uomo su cui poggiano tutte le aspettative del miliardario Roman Abramovic. Ne ha fatta di strada da quando aveva iniziato facendo l'interprete di Robson a Lisbona. Al tecnico inglese, comunque, deve buona parte delle chance che gli si sono presentate. Non si dimenticherà certo del suo maestro. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Destini incrociati. José Mourinho oggi è considerato uno dei più grandi allenatori del mondo. La sua straordinaria carriera è nata grazie all'intuizione di un leggendario allenatore inglese, Bobby Robson, per il quale il tecnico portoghese ha lavorato a lungo come interprete e come assistente, e che ha subito intuito le capacità di colui che oggi viene definito semplicemente lo Special One. Nella stagione 2004-2005, la prima che vede Mu sulla panchina del Chelsea, i due avrebbero potuto incontrarsi, dato che ai nastri di partenza Robson era per la quinta stagione consecutiva il manager del Newcastle. Purtroppo però Robson viene esonerato e chiude con la carriera di allenatore a 67 anni. Il palcoscenico è tutto per Mourinho. Nobody ask me my team. Volete sapere la formazione? Perché nessuno mi chiede la mia formazione? So why don't you ask me? Quale sarà la sua formazione? It's too late. I'm sorry. Mi dispiace, troppo tardi. È solo una delle pirotecniche conferenze stampa di José Mourinho, che durante l'esperienza alla guida del Chelsea diventa uno dei personaggi più mediatici e comunicativi del calcio internazionale. Abile oratore, straordinario provocatore, spesso Mourinho sembra studiare con chirurgica precisione la pesantezza delle sue dichiarazioni per far detonare polemiche a orologeria, in grado di togliere pressione dai suoi giocatori per concentrarla su di sé. Non chiamatemi arrogante, quello che dico è vero, sono speciale. Irriverente, gigione, magnetico, Mourinho lavora nel profondo sulla psicologia e sulle motivazioni dei suoi giocatori, riuscendo a trarne il massimo. Sotto la sua guida, il Chelsea, in tre stagioni, vince due volte il campionato, due volte la Coppa d'Inghilterra, per due volte arriva in semifinale di Champions League, ma perde. La prima volta contro il Liverpool di un certo Rafa Benitez, la seconda volta contro il Barcellona di Rijkaard, in una partita con strascichi polemici infiniti, condita da una plateale scivolata di José davanti alla panchina del Barça dopo il gol della sua squadra. E pensare che il Barcellona è stata una delle prime squadre di questo incontenibile guascone. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, forte, forte, ti vorrei, sì. Dopo una partita durissima contro il Manchester, ai giornalisti che gli chiedevano di eventuali screzi con Alex Ferguson, storico manager dei Red Devils, Mu risponde così. This is nothing against Sir Alex. I want to tell you one thing. After the game... Non ho niente contro Sir Alex. Vi racconterò una cosa. Dopo la partita, dopo la conferenza stampa, siamo stati insieme nel mio ufficio. Abbiamo riso, parlato, scherzato, bevuto. E per essere gentile, quando giocheremo a casa del Manchester, porterò una bottiglia di ottima qualità, perché il vino che abbiamo bevuto era pessimo e lui si lamentava. Uno così, naturalmente, non ha nulla di aziendalista. Motivo per cui a un presidente molto invasivo come Abramovich non può andare certo a genio. Così, dopo pochi mesi, iniziano gli screzi. Quando al terzo tentativo la Champions League sfugge, il rapporto si rompe. Abramovich ci pensa un po' prima di cacciare uno che in 3 anni ha perso solo 8 partite, nessuna in casa. Nel settembre del 2007 le parti risolvono consensualmente il contratto. 37 milioni di buonuscita a Mu e tanti saluti. I have nothing to prove to Chelsea. Con il Chelsea sono rimasto in buoni rapporti, ma se dovessi incontrarli in futuro in Champions League, spero di ammazzarli. Il resto della vicenda di José Mourinho è storia recente. Nel 2008, dopo un anno sabbatico, Mu firma per l'Inter e si presenta così. Ci sarebbe una difficoltà per un giocatore come Frank Lampard a inserirsi nel calcio italiano, cioè per quello che ha visto in Inghilterra e qui in Italia, un SN, un Lampard, avrebbe una difficoltà qui? Perché parla del giocatore del Chelsea? È perché è un modo furbo di fare la stessa domanda di lui. Sì. Sì, sì, sì. Ma io non sono Pirla. Nella sua prima stagione con i nerazzurri, José vince campionato e Coppa Italia. L'obiettivo primario del club resta la Champions League. Grazie a una campagna acquisti di rara intelligenza, che porta in azzurro Eto'o, Schneider, Lucio, Milito e Thiago Motta, l'Inter arriva a competere con i grandi club su scala continentale. Al resto, pensa lui, lo special one, con le sue rocambolesche sparate mediatiche. Mi sembra che in questo momento, negli ultimi giorni, grandissima manipolazione intellettuale, ma grandissima, grandissima. Grandissima manipolazione intellettuale, grandissimo lavoro organizzato di cambiare, di manipolare l'opinione pubblica. E questo, secondo me, è un lavoro fantastico di un mondo che non è il mio, sarà il mio fino al giorno che io lavoro nel calcio, ma veramente non è il mio mondo. Il mio mondo non è questo. Però con grandissimo successo, perché negli ultimi 2 giorni non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori, con tanti giocatori che io volevo avere con me e che finirà la stagione con 0 titoli. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con 0 titoli e che con giocatori, con tradizione, con cultura vincente, con tutto che una squadra ha bisogno per vincere titoli. Non si è parlato di una Juve che ha vinto tanti punti, ma tanti punti con errori arbitrali. La stagione 2009-2010 per José Mourinho è quella della definitiva e assoluta consacrazione, quella del triplette che fa sognare i tifosi dell'Inter, quella delle risse verbali con i giornalisti italiani, delle sfide agli arbitri. Mai banale, Mu è condottiero che lascia il segno, un leader per il quale i suoi giocatori sarebbero disposti a tutto. Una stagione così trionfale e memorabile è però come incastonata in 2 eventi che sembrano ricordare allo Special One il suo passato e i suoi inizi. Il primo di questi eventi ha un sapore tragico e triste. I've had a lot of kindness and generosity, yes. L'intervista che sentite in sottofondo è stata rilasciata il 23 luglio 2009 da Sir Bobby Robson, l'uomo che ha scoperto e lanciato José Mourinho. È la sua ultima intervista. Una settimana dopo, il 31 luglio, Robson muore a causa di un tumore ai polmoni. Poco meno di un anno prima, Robson aveva detto queste parole. Sto morendo e ora sono deciso a fare tutto quello che posso nel tempo che mi rimane. Del resto, sono già stato fortunato a vivere così a lungo e di questo devo ringraziare i dottori e la loro dedizione. La mia attuale condizione viene descritta come statica e non è cambiata dal mio ultimo ciclo di chemioterapie. I medici sono riusciti a fermare lo sviluppo del tumore ai polmoni e a breve darò un nuovo esame, ma lo so che sto andando a morire. Capita a tutti, ma non ci voglio pensare. Alla notizia della morte di Robson, sul sito ufficiale dell'Inter compare un comunicato a firma di José Mourinho. Non ho parlato con lui negli ultimi 2 mesi perché ero in difficoltà. Non volevo pensare che lui stava finendo. Non era quella l'immagine che volevo portare per sempre di Bobby Robson. Non era quella la voce che volevo sentire. Volevo e terrò sempre con me, il Bobby Robson di tutti i giorni, un uomo di straordinaria passione per la vita e per il calcio, con uno straordinario entusiasmo. Bobby Robson è una di quelle persone che non muoiono mai, non tanto per quello che hanno fatto in carriera, per una vittoria in più o in meno, ma per tutto ciò che hanno saputo dare a chi ha avuto, come me, la fortuna di conoscerlo e camminare al suo fianco. Il 22 maggio del 2010 a Madrid si chiude la trionfale stagione dell'Inter con la finale di Champions League. Di fronte il Bayern Monaco di Van Gaal, l'altro mentore di Mu, quello che l'ha fatto debuttare come allenatore 12 anni prima. Il destino sembra avere disegnato lo straordinario percorso di José Mourinho. In quella notte spagnola, Diego Milito, con una doppietta, regala il trionfo ai nerazzurri. Quando Mu alza al cielo la coppa dalle grandi orecchie, regalata ai tifosi nerazzurri dopo 45 anni, il suo pensiero vola alto, a cercare il grande Sir Bobby Robson. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.